sento se finisco rosso. Per me fa lo stesso, sì sì. Per farmi ingassare mi stanno gli ormoni e i problemi. Non me ne fongo perché io sono un pollo. Pollo, sei un pollo e il tuo destino è finire il forno. Pollo, sei un pollo e il tuo destino è finire nel forno. Yes! Facevo un caso, a dir poco tropicale, e mi ha cosparso tutto di sale. Io sono un pollo, e non protesto se finisco il rosso.